Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Zed, Festival Internazionale di Videodanza, è la quinta edizione, parte o già partito il secondo atto, le sedi Dams Lab in piazzetta Pierpaolo Pasolini, al Mambo in via Don Minzoni e al Cubo in Porta Europa. Quindi avremo la possibilità con ingresso gratuito di trovare questa intersezione tra video, danza, ed è un secondo atto dedicato a incontri tematici, formazione e workshop. È organizzato anche con un'importante collaborazione il Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna ed è quest'anno coprodotto all'interno della stagione del centro La Soffitta. Io sto cercando di mettermi in contatto con Marco Coccetti, direttore artistico per Zed, e quindi un attimo per riuscire a trovare la modalità e poi portare in diretta un ulteriore approfondimento dalla Compagnia della Quarta per la quinta edizione. Pensate un po' a questa conseguenza tra i numeri completamente casuale ed avere Marco Coccetti ai microfoni di questo Last Minute. Stacco musicale a Roma Bar, My Brother, e torniamo tra pochissimo. Buon ascolto. Abbiamo effettuato alcuni lavori sulle linee telefoniche, per cui questa è una chiamata, non dico con mezzi di emergenza, ma è atipica per essere un'intervista telefonica. Faremo del nostro meglio. Intanto do il buongiorno a Mario Coccetti di Zed. Mi senti, Mario? Buongiorno. Buongiorno, ti sento benissimo. Perfetto, allora direi che possiamo continuare la nostra conversazione in questo modo. Zed parte la quinta edizione e riprende con il secondo atto, 12-17 ottobre 2023, in attesa che è stata tecnicamente dovuta a questi imprevisti, ma siamo riusciti a portare continuità di presentazione. Come continua questa seconda parte di Zed? Ci puoi dire qualcosa di più? Io ho già citato le sedi del festival, e quindi come procediamo? Ottimo, sì, volentieri racconto un po' questo secondo atto, che appunto in realtà è concentrato sulla formazione, sulla conoscenza e anche sulle esperienze in XR della videodanza e della danza in XR. È stata una necessità quella del festival di suddividere in due atti, quindi atto 1 e atto 2, i contenuti che Zed propone al pubblico, proprio per dare una completezza del mondo della danza in XR, della danza in realtà virtuale, realtà aumentata, della screen dance. E dicevi giustamente che partiamo il 12, quindi siamo già in corso fino alla 17, e abbiamo quest'anno il piacere in questo secondo atto di ospitare anche delle celebrità come Sandy Silva e Marlene Millar, e appunto trovare dei punti di incontro, dei momenti di incontro in cui discutere sull'evoluzione della danza, della videodanza, della danza in XR, e capire anche quali sono poi i limiti che oggi abbiamo su questi contenuti qui. Cosa vi posso raccontare, Willy? Posso partire dalle esperienze XR, quelle più... Certo. Che magari sono più vicine al pubblico, che sono appunto meno indicate per gli addetti ai lavori. E abbiamo il piacere quest'anno di ospitare Margherita Bergamo Meneghini. Lei è un'artista italiana, lavora però da sempre in Francia insieme alla Paris Witt, che è l'università francese. Sta collaborando moltissimo con il DAMS a Bologna, e lei ci propone un lavoro veramente molto interessante. Oh, ti ho perso. Pronto? Ecco, ti ho ripreso, ci sei, ti ho ripreso. Propone un lavoro molto interessante. È molto interessante questo segmento di conversazione, perché hai detto che per chi si sta avvicinando, i più, diciamo, ecco, che hanno interesse e magari non sono esattamente pratici, per cui sono io, presente, ecco, ti ascolto. Ecco, dicevo, Margherita Bergamo Meneghini, non so dove mi sono interrotto, che è un'artista italianissima, lavora però da sempre in Francia insieme a Paris Witt, che è l'università francese, e collabora fortemente con il DAMS di Bologna. E lei presenta questo progetto, questa esperienza in realtà mista, che si chiama EVE 3.0, e il lavoro di Margherita è molto interessante perché cerca di rendere sempre più sottile il confine che c'è tra ciò che è reale e ciò che è virtuale. Quindi propone al pubblico una doppia visione della sua esperienza. Quindi bisogna immaginare il pubblico che viene accompagnato all'interno di uno spazio teatrale. Una parte di questo pubblico verrà consegnato un visore di realtà virtuale, quindi vivrà un'esperienza in realtà virtuale. Il resto del pubblico invece vedrà all'esterno una performance di danza in live. Questo perché? Perché Margherita è riuscita a creare delle connessioni tra ciò che appare nel visore e ciò che appare all'esterno del visore. È un bel dialogo, ok? Sì. Esatto, un dialogo fortissimo. Infatti la cosa per noi estremamente affascinante è proprio questa doppia visione, quindi un'ulteriore estensione della danza che non si ferma solo sull'aspetto del live, non si ferma sull'aspetto del virtuale, ma li accoglie entrambi. E il lavoro di Margherita, ripeto, è estremamente interessante, forse è unico in questo momento. Io lo consiglio moltissimo, proprio perché appunto così si ha anche la possibilità di capire la vera differenza, no? Certo. Tra come si esprime la danza attraverso la tecnologia e come si esprime attraverso il live. Questo, ti chiedevo solo una cosa velocissima, scusa, poi ti lascio procedere. È l'appuntamento più prossimo per quanto riguarda la data tra il 12 e il 17? O quando sarà? Ok, perfetto, bene. Così siamo attinenti al last minute. Bene. Ok, perché Margherita sarà in scena il 14, quindi sabato, con una doppia replica, una alle 18.30 e una alle 21. L'ingresso è libero, quindi non c'è biglietto, si può tranquillamente arrivare direttamente al teatro del Dance Lab. Che è una collaborazione importante per l'edizione del festival, volevo aggiungere. Sì, anche. Sì, esatto, anche perché appunto quest'anno il DAMS Lab è sempre stato, il DAMS con la professoressa Cervellati, insomma sono sempre stati partner storici di Zed Festival e sono stati quelli che poi per primi hanno un po' creduto nel progetto, quindi la loro presenza è sempre importante ed essenziale. E, tra l'altro quest'anno abbiamo una forte collaborazione anche con la Soffitta, che è sempre per sabato. Che sempre per sabato 14 ospita invece il lavoro di Esteban Lecoq e Aoin Aliamura con l'esperienza in realtà aumentata 0AR. In realtà questi artisti noi li conosciamo già perché li abbiamo già ospitati nel 2021. Loro sono geniali perché non partono mai dal concetto della danza, ma esplorano concetti completamente lontani per poi arrivare ad esprimerli con la danza. Quindi sono particolarmente interessanti e intelligenti. Sì. Esattamente. E in questo lavoro in 0R hanno collaborato con la Sadler's Wells, hanno rielaborato un lavoro di Akram Khan e portandolo appunto su una dimensione legata alla realtà aumentata. Quindi lo spettatore in realtà vedrà un'opera in realtà aumentata, vedrà danzatori virtuali attraverso uno schermo, ma questo schermo è interattivo, per cui possono compiere delle scelte attraverso il visore, quindi attraverso il tablet, e quindi appunto procedere in direzioni personali. Quindi essere parte del... essere parte attiva della possibilità che viene data. Ascolta, nonostante dovresti vedere, poi dicono che non riusciamo a fare più cose contemporaneamente, ti farei vedere come sto procedendo nella regia di diretta per questa conversazione a proposito di Zed. È interessante anche Compagnia della Quarta, arrivata alla quinta edizione. Questa, vabbè, è una conseguenzialità casuale che c'è nella... Puoi restare un attimo in diretta, in collegamento, che metto un po' di musica e poi parliamo anche di formazione workshop quando rientriamo, ok? Certamente. Certo. Grazie. Ascoltiamo un po' di musica, poi torniamo insieme per il secondo atto 2023 per Zed. Whatever it is, I know that it's real. Long as you know, no complaints, you're all that I feel. Mr. Soul, you must be my soul, sis. Soul, sis. Soul. Hey, sis, you must be my soul, sis. Accompagnati da questo moderno Philly Soul, sempre per Dope Rocket Record. È già molto che io non sia inciampato, ma c'è ancora tempo per riuscire nell'impresa, perché il secondo atto è curato Compagnia della Quarta per la quinta edizione. Voi sapete bene come la mia fascinazione, no? Come sono a mio agio con i numeri, le date, ed è già molto che invece sia stato, non dico preciso, ma abbastanza preciso per Zed Festival Internazionale di Videodanza. Con noi Mario Coccetti e ci siamo congedati un secondo per metterci a posto tra tutto quello che è tecnologia in studio diretta e rendere agevole la conversazione con quello che all'interno di questo secondo atto sarà formazione workshop. A te la parola, Mario. Eccomi. Sì, dunque, dicevo appunto, secondo atto, siccome è incentrato molto sulla formazione e sul dialogo che la tecnologia e la danza aprono, in realtà uno di questi workshop è già in atto, sta quasi per finirà oggi, che appunto prima citavo Margherita Bergamo Meneghini per il 2.0, e appunto ha aperto un workshop aperto fondamentalmente ad ogni età e da ogni tipo di formazione, proprio per capire il processo creativo che passa attraverso la nuova tecnologia. Quindi ha regalato, raccontato ai ragazzi cosa vuol dire creare una coreografia a 360 gradi per un visore VR. Come, scusami? No, ho detto, no, è estremamente, considera che io sono veramente un dinosauro della tecnologia, per cui cioè tutto quello che non conosco mi incuriosisce e dico quante possibilità che ci sono, anche l'idea di insegnare come creare una scenografia e un palcoscenico con queste nuove modalità, ecco, allora stavo pensando ad alta voce. Tra l'altro è anche molto interessante, diciamo, l'aspetto proprio coreografico del danzatore, perché ovviamente avendo una tecnologia che ti permette non una visione frontale ma una visione circolare, questo cambia ovviamente tutto l'assetto, tutta la struttura della coreografia, e quello forse è l'aspetto ancora più interessante, cioè cominciare a pensare fuori dagli schemi che fino ad oggi ha accompagnato la danza dal vivo. E quindi appunto Margherita fa proprio questo lavoro con coreografi, videomaker, amatori, insomma, ripeto, è un workshop aperto a tutti. Invece il 16 di ottobre abbiamo la giornata dedicata a Marlene Millari, a Sandy Silva, perché cominciamo al mattino, c'è un workshop dedicato alla body percussion, perché Sandy Silva è una coreografa americana, ha una storia enorme alle sue spalle, è famosissima in tutto il mondo, direi, e proprio perché lei ha creato un suo linguaggio molto personale, che è basato sulla coreografia, sull'utilizzo della voce e sul ritmo del corpo. Quindi ha messo insieme questi elementi e ogni volta riesce a creare delle coreografie molto narrative, molto emotive, partendo dal concetto di comunità. Quindi la coreografia non nasce semplicemente per essere una un processo di esposizione, una rappresentazione sul palcoscenico, ma diventa un modo per mettere in connessione persone che arrivano da diversi strati sociali. Quindi oltre al lato artistico c'è anche un lato molto umano, molto attuale e molto umano, esatto, che Sandy Silva sa cogliere appieno. E anche questo workshop è gratuito, è aperto a tutti, quindi non c'è bisogno di conoscere la danza per partecipare a questo evento, e ripeto, per noi è assolutamente un piacere averla, anzi direi quasi un onore averla con noi. Nel pomeriggio invece, su questo meccanismo, Marlene Millari e Sandy Silva hanno creato un progetto specifico che si chiama Offering, e nel pomeriggio si spiegheranno appunto questo lavoro che stanno portando avanti in diverse parti del mondo. In Italia hanno scelto tre tappe tra Genova, Torino e Bologna per appunto per concludere questo processo creativo. Questi sono appunto i due workshop che proponiamo quest'anno. Perfetto. Dopodiché appunto ci spostiamo sugli incontri tematici, ma volevo aggiungere solo che il 17 invece di ottobre allo spazio cultura di Cubo Unipol ci sarà la grande selezione Zed, quindi una serata di proiezione tutta incentrata sulla migliore videodanza sia nazionale che internazionale. Abbiamo raccolto 10 festival che arrivano appunto da tutta Europa per far vedere, per mostrare quanto è multisfaccettata questa arte e questa disciplina. Certo, intanto ti dico che è un onore, oltre che un piacere, conversare tra noi due estremi che si incontrano ogni volta con Zed. Io ti ringrazio perché mi dai possibilità e curiosità, e sicuramente anche le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori, per Zed, Festival Internazionale di Videodanza, che ovviamente continueremo a seguire. Grazie Mario, velocemente insieme ai saluti, piattaforme sul quale seguire, perché abbiamo presentato, ma come tu sai, i Verbo Volan, e diamo anche Dunque, intanto anche io ringrazio, perché è sempre bellissimo parlare con te, è sempre bello raccontare il festival, davvero è sempre un grandissimo piacere. E piattaforme, sicuramente il nostro sito zfestival.org, e poi Zed Festival lo trovate sia su Facebook che su Instagram. Buon proseguimento, grazie, buona giornata. Ciao Mario. Ciao Mario. Ciao ciao. DJ produttore ungherese Yonderboy, era giovanissimo, adesso è passato un po' di tempo, però il suo esordio era giovanissimo. Bravo lui, l'ho visto anche a Bologna, un bel talento, peccato che prodotto un po' pochino, secondo me. Però lui, bel tipo. E su queste note mi congedo a voi con un caloroso abbraccio, ringraziandovi per l'attenzione e per aver fatto anche oggi colazione con il Breakfast Club. A breve l'Edipo Enciclopedico, seguirà Liberi Dentro, poi la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Devo scappare il martedì Ravenna per quanto riguarda la Biennale del Mosaico e per quanto riguarda anche l'esposizione dedicata ad Alberto Burri. Sarà in mostra nella giornata di giovedì. Non mancherò per Jazz Live, ovviamente, quindi sarò un po' così impegnatissimo. 11.30, 12.30 con il weekend al meraviglioso Jazz Club Estense di Ferrara, il Torrione. Dal vostro William Piana, intanto un buon weekend, un a risentirci per l'appuntamento a colazione nel lunedì prossimo e a tutte e a tutti voi un buon ascolto su Radio Città Fujiko. Ciao a tutte, ciao a tutti!